467 giorni per fare il giro del mondo, Eddie? Esatto, precisi, 467. Ce li hai contati senza mai prendere l'aereo? Uno per uno, senza mai prendere l'aereo. Ma hai paura di volare? No. Ok, è una follia ovviamente, e tutto ciò perché lo hai fatto? Boh. Come boh? Non c'è motivo. Ma nel libro parli di questa febbre del viaggio, niente. Un motivo vero non c'è, la febbre non è un motivo, è una malattia. Queste sono le mine vaganti. Mine vaganti di Federico Taddia. Buona domenica da Federico Taddia e benvenuti a questa prima puntata di Mine Vaganti, seconda stagione, per passare insieme la domenica pomeriggio, insomma, che è un bel momento, no? In tanti sono in viaggio per ritornare magari dal weekend di vacanza o di festa, oppure siete lì in nostra compagnia e noi sfruttiamo questa parentesi domenicale per cercare di dar voce a un'altra Italia, un'Italia fatta di persone curiose, bizzarre, stravaganti, ma anche virtuose. Andremo a sbirciare nella rete, andremo a sbirciare nel passaparola, andremo a sbirciare nella cronaca locale, insomma andremo a scandagliare quest'altra Italia. Oggi viaggeremo e viaggeremo tanto, e infatti con me c'è qui in studio Eddie Cattaneo, autore del libro Mondo via terra, edito da Feltrinelli, e soprattutto protagonista di questa curiosa avventura, un giro del mondo senza mai prendere l'aereo in 467 giorni. Ciao Eddie. Ciao, buongiorno a tutti. Siamo a piedi ovviamente oggi, vero? Certo, a piedi, è chiaro. Allora Eddie, tu, questo viaggio l'hai fatto un paio d'anni fa? È iniziato il 15 settembre del 2008 e si è chiuso alla fine del 2009, quindi è un anno e mezzo che sono a casa. La cosa strana, ho cercato anche preparando la puntata di chiacchierare un po' con lui, ma niente, cioè, sembra che abbia fatto la cosa più normale del mondo. Cioè questo, un giorno ha deciso, ha detto io parto, esatto. L'hai detto a tutti fuorché ai tuoi genitori. Esattamente, sono stati gli ultimi e non lo sanno ancora in maniera precisa. Ha inventato un viaggio in Cina, sì, vero, per esatto, il lavoro. Una cosa del genere, esatto. Non ti sei preparato particolarmente, cioè hai preso di fatto un pennarello, un mappamondo e hai tracciato una ipotetica via? Sì, esatto, ho aperto l'Atlante e ho cercato di capire se era possibile, fattibile almeno una rotta via terra. Ho cercato di capire se i vari paesi tra di loro confinanti mi potevano far passare oppure no. Ho risolto il problema degli oceani, perché poi è un mondo via terra e tra parentesi anche un pochino via mare, sì. Quindi ho preso il cargo, ho visto che era possibile la viaggiare come passeggeri sui cargo e alla fine sono partito. Il sacco a pelo, le scarpe e quant'altro li ho comprati il giorno prima, due giorni prima, perché poi sono partito di lunedì, li ho comprati al sabato, ho preso un treno e sono andato. Allora, poi c'è tutto un background che adesso vi racconterò. Intanto diamo un po' di coordinate. Abbiamo aperto al volo una pagina in Facebook di Mine Vaganti di Radio 24, si chiama così, dove potete già trovare i link relativi a tutti gli argomenti che andremo a toccare. C'è una foto di Eddie qua in radio, cioè esiste per davvero. E poi potete anche farvi vivi via SMS al 349-238-6666 o attraverso il numero verde 800 24 00 24, perché questa cosa della febbre di cui tu nel libro parli, cioè hai la febbre della partenza, cioè è una cosa che ti nasce all'improvviso, è un fuoco che si accende e devi partire. Sì, è piano piano, ce l'hai lì, a un certo punto non c'era, c'è. E da quel momento in poi non si spegne più, devi in qualche modo partire. In realtà io non volevo partire, alla fine dovevo andare via. Perché comunque eri spinto da questo fuoco? Sì, qualcosa che c'hai, non so cosa sia, genetica o sangue, non lo so cosa sia, però è lì e in qualche modo devi sfebbrare, toglierti la malattia. Andiamo a vedere se questa febbre è una febbre contagiosa, quindi anche tra i nostri ascoltatori, se anche voi siete stati colpiti da questa febbre, che può durare un'ora, un giorno, 467 giorni, come è stato nel caso di Eddie, quella volta che siete dovuti partire, cioè proprio senza motivo, senza un perché, o forse c'era anche questo motivo, c'era anche questo perché, ma avete sentito uno slancio improvviso. Siamo qui per conoscere le vostre storie, via SMS 349-238-6666, oppure attraverso il numero verde 800 24 00 24. Giacomo, anche tu hai questa febbre da viaggio? Sì, sì, io febbre l'ho avuta anche nel vero senso della parola l'anno scorso. È vero. È stata fortissima, perché i miei viaggi sono fatti soprattutto per cercare di coinvolgere le persone, e io per primo devo essere ovviamente coinvolto. Io li faccio sull'acqua, dedicandoli all'acqua e sulle acque, come siamo adesso, che siamo in una chiusa qui in un posto che si chiama Pompei, vicino a Nancy. Siamo a 14 km da Nancy sulla Mosella, che è un fiume bellissimo. Io è la prima volta che ci navigo e abbiamo veleggiato quasi tutto il tempo. Allora Giacomo, andiamo a presentarti. Giacomo De Stefano, questo è il nome, c'è anche un nome d'arte che è anche il nome del tuo sito, che è Man on the River. Una passione per i viaggi e una passione per questo viaggio. Sei partito da Londra, l'obiettivo a Istanbul, e l'obiettivo è quello di arrivarci con questa barca a remi, facendo praticamente solo fiumi. Un viaggio che avevi già iniziato lo scorso anno, poi a causa di una malattia, di una febbre reale, hai dovuto interrompere. Quest'anno sei ripartito. A che giorno sei di navigazione? Siamo partiti il 9 maggio da Ramsgate, perché in realtà c'è anche mare, abbiamo attraversato la Manica, è vero, a vela, e ci sarà il Mar Nero, poi se inshallah se ci arriviamo. E oggi sono un mese di viaggio, poco più di un mese di viaggio. Abbiamo già fatto circa 700 chilometri in totale, anzi siamo a 800 compreso. Siamo partiti quasi da Oxford, da Henley-on-Thames, vicino a Oxford, un po' più su di Londra, perché volevo proprio vedere il Tamigi, com'era questo fiume che era stato dichiarato morto 30 anni fa, 40 anni fa, e poi è stato letteralmente ripulito, tanto che oggi addirittura dà da bere alla città di Londra. Mm-hmm. E ho incontrato proprio Rita Serra, che tu mi avevi presentato. Ah sì, che è stata nostra ospite qui. È stata ospite all'Altra Europa, che ci ha raccontato appunto la sua esperienza. È una delle volontarie, una delle addette a questo lavoro di riqualificazione del Tamigi, e so che c'è stato questo bel incontro. E Giacomo, farei così, diamo subito il tuo sito, che è manontheriver.com. È da vedere, perché ci sono dei video stupendi e si vive veramente l'atmosfera di questa tua avventura. Noi ci fermiamo un attimo, nel momento del traffico, e so che il traffico a te poco interessa, che sei lì sui fiumi, ma i nostri ascoltatori invece sono in viaggio, e ci ritroviamo fra pochissimo qui a Mine Vaganti. Mine Vaganti. 5.200 chilometri, 6 mesi su una barca remi, giorno e notte, 1 milione di vogate, più o meno sono le vogate previste. Questi sono i numeri di Giacomo De Stefano, con noi in collegamento, sta remando in diretta. Giacomo, la tua va al di là dell'impresa fisico, dell'impresa sportiva, no? La tua è una sorta di viaggio antropologico, di conoscenza, di incontri. Tra l'altro si può venire a remare con te, perché so che ogni tanto fai salire sulla tua barca, certo, compagni di viaggio occasionali. E come stanno andando? Sì, anzi, colgo l'occasione per invitare te e di Cattaneo, a cui vanno tutte le mie congratulazioni per quello che ha fatto. Quindi se ha voglia di fare qualche... Anche perché camminiamo a volte noi, trainiamo la barca dalle sponde, quando c'è il vento contrario che non ci permette di andare a vela né di remare, trainiamo la barca come si faceva una volta. Ecco, il nostro viaggio sicuramente è più una ricerca di apprendimento e di esperienze, che non una performance o un'avventura, e tantomeno un'impresa. Uh-huh. Che poi è chiaro che non tutti i giorni si fanno queste distanze a remi, però a me è sembrata una cosa veramente logica, prendere una barca, costruirla, cercando di farlo con le risorse che ci dava la solidarietà delle persone, perché noi cerchiamo di viaggiare quasi a budget vicino allo zero, insomma, in maniera molto spartana, e con grandi invece investimenti sulle relazioni umane e sul rispetto del paesaggio e dell'acqua soprattutto. Ecco Giacomo, qual è se c'è una reazione comune, nel senso che le persone vi vedono, tra l'altro è un'imbarcazione anche particolare che si nota, cosa vi chiedono? Qual è la domanda più ricorrente? La prima domanda è: ci vedono la barca, è una barca di una, praticamente una barca vichinga, è una copia di una barca vichinga di 5,60 m, ma non immaginatevi quelle barche col drago, è una barca norvegese che è usata per la pesca e va bene a vela, a remi, è molto leggera, è lunga 5,60 m, l'abbiamo costruita a Venezia e a Villa del Conte, in provincia di Padova. La gente quando ci vede ci chiede prima da dove veniamo, e quando sentono da Londra iniziano a fare espressioni colorite, sì, strane, di stupore, e poi quando sanno che andiamo verso Istanbul ci dicono Prima cosa, ci invitano quasi sempre a bere qualcosa. Ieri, ad esempio, uno di questi éclusiers, cioè i gestori delle chiuse, che tra l'altro abbiamo fatto finora circa 170 chiuse, cioè quando il fiume va su e giù, i dislivelli vengono superati attraverso queste chiuse, che ci ha invitato a casa con la moglie e la figlia a bere champagne, che lui, perché lavora in una fabbrica, in una, non una fabbrica, come si chiama? Sì, comunque uno stabilimento, una cantina, insomma. Una cantina, e quindi c'è questa incredibile solidarietà. Ecco, adesso stiamo uscendo dalla chiusa e, scusate un attimo, prendo... Stai remando per davvero? Cioè in questo momento sei... Sto remando, però abbiamo il vento che ci spinge, un po' riusciamo anche a uscire a vela, però comunque devo dare un colpetto perché siamo in due con... Hai l'auricolare? Stai guidando con l'auricolare? Sì, c'è il viva voce. No, c'ho una remo, infatti, con un remo solo. Ah, ecco. Non vorremmo, perché... non vorremmo avere la responsabilità di una scuffiata in diretta. Sì. No, le multe. Grazie al cielo abbiamo il vento a favore, quindi abbiamo la mezzana, cioè che è la vela piccola a poppa, che ci sta spingendo fuori dalla chiusa. Questa è una chiusa anche non troppo grande, quindi è solo 3 metri. Prima ne avevo fatta una di 12, quindi... È fantastico. Insomma, Giacomo, poi è bello perché si sente la serenità e la tranquillità di questo viaggiare, no? A contatto con l'acqua giorno per giorno. Ma la tabella di marcia anche la state rispettando, Giacomo? Cioè, siete nei tempi previsti? Ma sì, ti dirò che a noi stiamo... Se ne frega un po' quello... Non so dirtelo, no, appunto, perché in realtà questo viaggio, calcolando una media di 30 km al giorno, che variano da 5 quando hai vento contrario e proprio non vai avanti, c'è brutto tempo, o stai fermo e fai zero, oppure fai 100 km quando hai il vento a favore. Quando abbiamo fatto la Manica erano 37 miglia. Oui, Nancy. El bien avec nous. Oui, oui. Stai facendo autostop? È quello della chiusa che dall'altro ci sta gridando, chiedendo informazioni. A voi. Se no ci chiudono dentro la chiusa, sono porte di abbastanza pesantine. No. Ci bloccano, qui ci stritrono. E dicevo, la tabella di marcia è un po' è lasciata agli avvenimenti, quindi le sorprese, gli incontri, la modificano continuamente. Comunque stiamo andando direi molto bene. Se vedete sul sito dove siamo, la piantina, siamo arrivati quasi a un quinto del nostro itinerario, quindi prevediamo di farcela in 6 mesi per arrivare a Istanbul, se tutto andrà bene, incrociamo le dita. E qual è il tragitto, scusa? Esatto, ci puoi sintetizzare il tragitto? Che sai, qui Eddie è un po' un patito di mappe, che ha anche il suo lavoro e di tracciati. Qual è più o meno, ce lo puoi sintetizzare questo percorso attraverso l'Europa? È nato proprio su una mappa il viaggio. Allora, adesso prendo il timone e Bruno, che è con me, Bruno Porto, mio amico brasiliano che è a bordo. Certo, tu inviti un amico brasiliano e giustamente lo porti a remare in Francia. Bruno Porto, skipper, uno skipper che ha nome così, nome. Non poteva fare anche quello. Dunque, noi adesso abbiamo fatto tutto il Tamigi, poi abbiamo attraversato la Manica da Ramsgate a Gravelines, sì? Quindi vicino tra Dunkerque e Calais. E poi siamo andati, attento che c'è una barca, e poi siamo andati su, dunque scendiamo lungo tutti i canali francesi che non vi sto a elencare perché sono anche tantissimi. No, esatto. Canale di Saint-Quentin, canale Reno, sì? Sul quale noi stiamo per arrivare, cioè eravamo già, ritorniamo, adesso c'è questa breve interruzione sulla Mosella, poi a Strasburgo entriamo nel Reno, lo discendiamo perché non si può risalire come originariamente volevo fare, perché la navigazione a vela in molti tratti è proibita, è controcorrente, è molto difficile. È faticoso, certo. Poi a Mainz, a Magonza in italiano, iniziamo a risalire il Meno, 360 km, a Bamberger, iniziamo a entrare in questo canale Europa che già Carlo Magno aveva iniziato a costruire nel 793 d.C., che è stato finito nel 1993, 171 km di questo canale, a Regensburg, Ratisbona, sì? Ci infiliamo nel Danubio e lì scendiamo per 2400 km attraverso 6 capitali praticamente, Vienna, Budapest, poi Bratislava, includendo anche Istanbul come capitale, poi c'era Londra ovviamente, e non mi ricordo più. Insomma, comunque mi sembra che sia e un poi un Mar Nero e Bosforo e Istanbul. E via, e il Corno d'Oro. Arrivo. Giacomo, e per tornare? per tornare, cercheremo di portarla con una macchina. Stiamo cercando qualcuno che ci regali o ci presti una macchina elettrica, perché la lasceremo per 2 o 3 mesi in un museo, il museo Koç a Istanbul, che ci ha chiesto di lasciarla lì e di esporla, diciamo così, e poi vedremo di riportarla in Italia, anche perché vorremmo rifare. Io nel 2008 ho fatto il Po con Radio 24, che mi seguiva quotidianamente con CR24. Cosa vuoi fare dopo? E vorrei riportarla sulle acque anche in Italia, per incontrare le persone, raccontare, parlare delle acque, perché noi siamo acqua al 70% di ognuno di noi, ed è importante averne cura e tutelarla. Insomma, un programma a lunga percorrenza. Giacomo, ci risentiremo sicuramente qui a Mine Vaganti nelle prossime puntate. Grazie come sempre, e invito ancora a navigare sul tuo sito, perché è ricco di informazioni quotidiane e sembra quasi di poter remare con te. Ciao Giacomo. Ciao. Stiamo anche facendo un documentario. Grazie a tutti, comunque un abbraccio. Ciao. Anche questa è la febbre del viaggio. Voi quando avete avuto questa febbre, cosa vi ha spinto a partire? Perché quel giorno avete dovuto fare la valigia, ma anche senza valigia, e avete preso un bus, un taxi, un aereo? 824 0024 è il numero verde, 349 238 6666 per i vostri sms. Dalla provincia di Padova c'è Paolo. Ciao Paolo. Buongiorno. Sei un viaggiatore? Sono stato un viaggiatore, ora ho 48 anni, viaggio ancora, ma con tutto un altro spirito, viaggio per lavoro. Invece quando ero ragazzo, dai 16, 15 anni veramente, fino ai 19, ancora poi con qualche viaggio verso i 21, ho viaggiato tanto. E questo fuoco l'hai sentito, l'hai vissuto? Ti ha scottato? Sì, l'ho ascoltato e vi ho chiamati perché lo voglio dire a tutti i ragazzi di quell'età. Amate il viaggio, perché quello che mi ha dato quel tempo in cui io viaggiavo non si trova scritto sui libri. E la sorpresa più bella che ho avuto è che contro la diffidenza che avevo attorno di amici, parenti, ho trovato un mondo meraviglioso di ospitalità, di persone che mi hanno insegnato di tutto, che mi hanno portato a vedere che il mondo era molto più grande di quello che mi dicevano i libri e la televisione. Insomma, e soprattutto molto più positivo. Sì, e il viaggio è più che una metafora, no? Quindi è veramente conoscenza, un incontro con la vita reale. Grazie Paolo, continua a viaggiare comunque, che fa bene. Ciao. E noi torniamo da Eddie. Allora, non sai bene perché sei partito, però sei partito, questo è fondamentale. Ti sei pentito a un certo punto? Mai pentito della strada, mai pentito nessuno dei giorni che ho fatto in giro, mi ha mai fatto pensare di tornare a casa. Comunque avevi 40 anni, quindi avevi voglia di prenderti una sorta di anno sabbatico, te lo potevi anche permettere, insomma avevi fatto anche tutti questi calcoli? L'anno sabbatico non me l'hanno dato. Sul lavoro hanno detto? Assolutamente no, poteva essere visto come un cattivo precedente per gli altri, eccetera, quindi mi sono licenziato. Quindi avevo un lavoro a tempo fisso, a tempo indeterminato, e prospettive di carriera e tutto quanto. Era 10 anni ormai che lavoravo lì, 8. E però insomma, prima o poi questa cosa la dovevo fare. E è arrivata a quest'età, poteva arrivare prima, poteva arrivare dopo, e mi sono buttato. A quel punto ho deciso di farlo. Volevo fare un giro del mondo in realtà, e a quel punto ho detto sto mollando tutto, allora mi prendo tutto in cambio, e ho detto lo faccio piano piano, calpestandolo tutto, un passo dietro l'altro, dal vialetto di casa mia, facendo tutto il giro del mondo fino di nuovo al vialetto di casa mia, quindi con lo stesso paio di scarpe, tra l'altro. Non hai mai cambiato le scarpe in 467 giorni? Era una specie di scommessa che avevo fatto con me stesso. Ho detto io voglio avere qualcosa alla fine che mi ricordi che questo l'ho fatto, e quelle scarpe lì le ho usate praticamente dal giorno prima della partenza fino al giorno in cui sono tornato, tra l'altro anche dopo, perché per un mese avevo le cose chiuse negli scatoloni, e quindi era l'unico paio di scarpe che avevo. Quindi questo è il Mondo Via Terra di Eddie Cataneo. Mondo Via Terra è il titolo del suo blog, mondoviaterra.blogspot.com, già caricato sulle nostre pagine in Facebook di Mine Vaganti, ma anche il titolo del libro pubblicato con Feltri Nelli. Mine Vaganti. non rappresento che me stesso perché questo sono. Se sbaglio mi perdono, prima di essere MC, sì, uomo, mi ripeto, fa mille passi indietro e il risultato è che non mi sento per niente arrivato, anzi, sto bene anche a cibarmi degli avanzi, dei padroni sazi, e mi piglio spazi se me li concedono, se non me li lascio fottere, detesto combattere, che vuoi farci carattere, sbattere, testa contro le porte, il mio forte, sono il gallo da spennare per chi bara le carte, giù l'are di corte, messo a morte, poi salvato da una chance, lascerei la musica, ma sta stronza mi fa le avanze e non resisto, mi do impasto alla lingua che mastico, investo in testi che vesto di stracce, mi riduco all'astrico, nella testa un mistico richiamo, poema indiano, che mi prende per mano e mi dice andiamo, se non rispondono al tuo appello, cammina solo, cammina solo. E quando ho ascoltato questa canzone di Caparezza, insomma, mi sembrava un po' un tuo manifesto, Eddie. Poi anche tu, insomma, ho visto delle foto mentre eri in viaggio, avevi questa... Sì, Caparezza, sì, questa bella testa riccioluta, Eddie Cattaneo, il mondo via terra. Allora, due messaggi polemici, te lo dico subito. Il primo arriva da Padova e ci dicono, figurati se ha fatto il giro del mondo con solo un paio di scarpe. Assolutamente vero, le metto... Cioè, ci sono sul sito, le ho fatte riparare 3-4 volte, una volta in Nepal, una volta in Burkina Faso, una volta in Colombia, però in Amazzonia anche. Sono quelle, sono assolutamente. Che comunque ha fatto il giro del mondo a piedi, nel senso che non ha mai preso l'aereo, però non è che ha fatto ogni metro, ecco, esatto, sì. Hai viaggiato, hai preso... Ho fatto tanto a piedi, nel senso di camminare tra un posto e l'altro, tanto trekking, autostop, eccetera, ma ovviamente in 467 giorni tutto a piedi, no. Qualche cammello, credo? Cammelli, barche, tutto quello che non era aereo. Tutto quello che non vola l'hai preso. Sì. L'altra invece, l'altra polemica è appunto il discorso, ma chi finanzia questo signore? Cioè, vabbè, uno costa fare un viaggio, stare in viaggio per 467 giorni in giro per il mondo? Ah, dipende dalle aspettative che hai rispetto alle comodità. Io mi sono assolutamente autofinanziato, non ho avuto nessuno sponsor, non li ho neanche cercati in realtà. E tutto quello che ho fatto l'ho fatto perché avevo voglia di farlo senza nessun altro secondo fine. Ma dove dormivi? Come mangiavi? Ovunque, mangiavo e dormivo ovunque, nel senso che tante volte ovviamente negli ostelli o nei posti, però tantissime altre volte sono stato ospitato dalla gente, sono rimasto in casa di persone a mangiare, a dormire, sono stato invitato a matrimoni, celebrazioni religiose, uno dei posti nei quali non ho speso quasi niente, anche perché il costo della vita è molto basso, il Pakistan. Io ho fatto tutta la zona, la parte nord del Pakistan, e ovunque andassi, visto che appunto cultura musulmana, l'ospite è un dono di Allah, unita al fatto che eravamo pochissimi turisti, ma molto molto pochi, sono sempre stato visto in qualche modo come un modo per comunicare con l'esterno, una delle pochissime risorse per davvero vedere cosa c'era fuori. Quindi appena mi vedevano per la strada, eccetera, mi chiamavano, mi portavano, ho fatto davvero delle esperienze pazzesche, perché poi, non lo so, volevo mangiare, volevo assaggiare qualcosa, sono molto, molto curioso di tutto ciò che riguarda i sensi, soprattutto il cibo, quindi volevo assaggiare qualcosa, mi prendevano per mano, mi portavano in un ristorante, mi dicevano ok, mangia, e poi pagavano loro. È capitato più di una volta questo in Pakistan, ma anche in Kirghizistan, Uzbekistan, quindi sulla via della seta, in Patagonia, e stavo viaggiando con una ragazza, ci hanno praticamente dato gratis una casa in mezzo a un bosco, un po' spartana, perché ecco, per esempio in quel caso lì non c'era acqua, non c'era luce, non c'era corrente, lei andava al fiume a fare l'acqua proprio con i secchi, e io spaccavo la legna, perché con era la anche cetta. Romantico, insomma, molto romantico, tra l'altro era il 21 giugno, quindi era il 23 di giugno, quindi era la notte più lunga dell'anno, perché sì, era giù là in Patagonia, e quindi era davvero una specie di piccola luna di miele in quel caso. Fantastico. E il vostro fuoco, perché quando siete partiti, 349-238-6666 per i vostri messaggi, 824-0024 è il numero verde che ha composto Andrea D'Arezzo. Ciao Andrea. Ciao, buongiorno a tutti. Credo che il tuo fuoco sia acceso, vero, in questo momento? Il mio fuoco è acceso perché sono già in viaggio sostanzialmente, perché ci stiamo spostando verso Trieste, da dove partiremo, e adesso siamo in macchina, autostrada. Da Trieste partenza per? Da Trieste partenza per Teheran. andiamo in Iran. Ah. Io e la mia compagna e abbiamo scelto di farlo via terra. Molto bene. E come vi siete preparati? Perché qui sulla preparazione ci sono varie, varie voci, no? Cioè, varie tendenze. Cioè, siete di quelli che avete già predisposto giorno, il planning giorno per giorno? No, assolutamente, noi sappiamo che partiremo sostanzialmente in autobus da Trieste, arriveremo a Belgrado, se avremo voglia ci fermeremo un po' a Belgrado, da lì prenderemo un treno che si chiama Balkan Express, mm-hmm. ci porterà a Sofia, e se vogliamo pure lì ci fermiamo, sì. E da lì un altro treno ancora, il Transavia Express, che ci porterà a Istanbul, che è il vecchio Oriente Express, e da lì poi ancora Teheran, ma non ci sono progetti, sappiamo che siamo in viaggio e si va. Quello che viene va tutto bene. Sai che il tuo racconto ha fatto illuminare gli occhi a Eddie Cattaneo e qui di fronte a me ho visto rivivere cose che... che mi sarebbe piaciuto passare mi sarebbe piaciuto passare da lì, dal basso, solo che poi dall'Iran sarei dovuto entrare in Pakistan via terra ed era un po' complicato. Mi ha fatto la via della seta, però... quella parte lì mi è rimasta lì, mi è rimasta nel cuore. Andrea, un attimo così, un momento di fatti vostri, ma sei tu che hai convinto la tua compagna o è stata la tua compagna che ha convinto te? Cioè, come nasce anche all'interno della coppia la scelta di fare un viaggio di questo tipo? Guarda, facciamo così, io ti dico la mia versione e poi adesso dirà la sua. È venuto molto spontaneo per entrambi perché lì erano un paese che amiamo e che abbiamo visitato già... singolarmente, separatamente, sì. È venuta fuori questa idea e abbiamo avuto un visto e è andata così, siamo partiti. Però onde evitare di litigare prima della partenza, sì. Prima della passo. Sì, esatto, che sentiamo qual è la verità. Vabbè, ciao, buon viaggio. Ciao. Pronto? Pronto? Ecco la bocca della verità. Ecco, raccontaci, qual è il vero motivo di questo viaggio? No, in realtà perché questo viaggio l'ho già fatto, un pezzo. Ma con una... E quindi volevo rivivere questa cosa, diciamo il pezzo che ho già fatto è stato il viaggio sul Transavia Express, quindi Istanbul-Teheran. Ok. E quindi volevo farmela tutta via terra, cioè quel viaggio, il viaggio della vita voglio di fare, capito? Cioè okay. Quello in cui parti e non sai né quando parti, soprattutto non sai quando arrivi e t'affidi interamente a quello che ti capita durante il tragitto, no? Ok, scusa, ma qui devo interpretare la domanda che vedo negli occhi di tutte le persone che sono attorno a me, cioè quel pezzo di viaggio non l'avevi fatto con un altro fidanzato? No, ero sola. Beh, perfetto, ok, no, siamo già più tranquilli tutti. No, ero sola. Ok, buon viaggio, insomma, sarà un'esperienza, sarà una un viaggio. Bomba. Ah, beh, assolutamente. E occhio agli incontri nel senso bello del termine, che è la cosa che ci ha trasmesso anche Eddie. Grazie a voi, buon pomeriggio. Ciao. Eddie, nel tuo viaggiare hai mai incontrato, cioè quei cartelli stradali hai avuto un rapporto particolare? Tu insomma, sei curioso anche di questo? Dovevi comunque viaggiare a piedi, ti guardavi intorno, sei uno curioso? Sì, cartelli stradali pieno, poi alcuni più strani di altri, tipo quelli, che ne so, con i cammelli, attenzione attraversamento cammelli, piuttosto che, non lo so, il paguro, ecco, ci sono cartelli con l'armadillo, col paguro nella zona del Perù. Clete, hai mai visto un cartello col paguro o col cammello? No, ciao, non ho avuto l'occasione ancora, no. Però ti piacerebbe, vero? Ma sì, il mondo infatti, come dice Eddie, è pieno di cartelli, si tiene aspetto di tutto. Diamo il benvenuto a Clete Abraham, artista bretone ma fiorentino d'adozione. E Clete, tu sei un artista che di fatto spopoli in rete, poi io che sono un divoratore di cronaca locale ti trovo ogni tanto sui quotidiani dall'Alto Adige alla Calabria, perché tu hai questa attività artistica, una delle tue attività artistiche molto particolare, vai a umanizzare, diciamo, i cartelli stradali, va bene come termine? Sì, benissimo, una bella espressione, sì. Praticamente di notte, per evitare incontri spiacevoli, vado ad attaccare degli adesivi su dei cartelli che gli rendono un grado di lettura maggiore, spesso usando la figura stilizzata dell'omino dei cartelli. Ecco, ma questa cosa è da denuncia, credo? Allora lì c'è una contraddizione, perché c'è un articolo del codice della strada che lo denuncia, infatti, cioè che fa che è fuori legge, però la Costituzione italiana dice che l'arte è libera, Quindi nel momento in cui riesco a dimostrare che quello che faccio è arte, si fa pari. Sì, allora io sarei per un giusto compromesso, nel senso che ovviamente ho visto su Facebook tantissimi dei tuoi cartelli, rimangono leggibili e simpatici. Poi ovviamente insomma il confine tra arte e legge c'è e va rispettato. La tua fantasia è assolutamente piacevole. E ce li puoi far vedere via radio un paio? Cioè ci puoi raccontare quello che fai? So che è una sfida tosta. Sì, proprio un tipo di cartello specifico, sì? Spiegarlo? Uh-huh. Sì? Allora, quello più gettonato è sul divieto d'accesso, tra l'altro perché il divieto d'accesso è veramente, veramente, ce ne sono tantissimi, quindi si vede molto, ed è messo un omino nero, che è proprio l'omino dei cartelli, che si porta via la sbarra, nel tentativo di farsi carico dei divieti per liberarsene, sia dei divieti imposti da fuori che divieti, cioè i tabù che uno ha dentro di sé, certo. Di liberarsi dei divieti. Sì, sì. Un altro è quello che è stato il primo, quello della strada senza uscita, quindi sulla T della strada senza uscita ci metto sempre stilizzato un Cristo in croce, ecco, okay. Per rimandare l'idea della fine, quindi dell'aldilà, che la religione è basata sull'idea del concetto di aldilà. Certo, insomma è un'arte, e non è un caso, credo, che insomma ci sia questo forte tam tam in rete, no? Che è proprio un passarsi le immagini che tu vai a creare. E ho messo già sulle nostre pagine di Mine Vaganti il link alle tue pagine in Facebook, dove grazie. Appunto si possono vedere e si possono anche forse suggerire così interventi artistici. Grazie. Mi raccomando, però non farmi arrabbiare i vigili urbani di tutta Italia, ok Clet? Ma solo un pochino, dai. Non può, sì, però dai, che sennò insomma trova che tu accordatevi, ci sono tanti anche cartelli inutili, cartelli rovinati, i cartelli in zone che sono messi lì, se li sono dimenticati, ecco, vai lì a colpire, perché sennò giustamente insomma poi si arrabbiano, perché insomma stiamo danneggiando un bene pubblico. Ciao Clet, grazie, ciao, buona domenica. Ciao ciao, ciao. Mine Vaganti. Ancora Mine Vaganti, ancora con Eddie Cattaneo qua in studio con il suo mondo via terra. Eddie, non ho contato le pagine del tuo libro, è un diario che in parte hai scritto in viaggio a mano, sì. E poi quando sei arrivato a casa insomma hai rimesso insieme tutti questi appunti. Tutti fogliettini, carta igienica, tovagliolini dei ristoranti, pagine strappate dai quaderni, quello che capitava insomma lo scrivevo. Insomma, sei un romantico, questo lo abbiamo capito. Ho usato anche internet, perché poi quello lo tra l'altro internet copiavo. Che trovavi ovunque, giusto, in questo internet viaggio. Ovunque, cioè in questi anni 10, tra virgolette, diciamo, la differenza rispetto al resto dei viaggiatori e degli altri periodi in cui si viaggiava è proprio internet, nel senso che io potevo appunto copiarmi sul blog questi appunti che mi prendevo, e anche per esempio in paesini sperduti dell'Africa. Io a Boromo, per esempio, che è un villaggetto nel Burkina Faso, stavo da questo mio amico che mi ospitava nella capanna proprio di fango, quella classica col tetto di paglia a cono. Non c'avevamo il bagno, non c'avevamo il frigo, l'elettricità, niente, però poco distante da noi c'era una capannuccia dentro la quale c'era un modem attaccato a un generatore a benzina, e accendevamo il generatore, partiva il modem e ci connettevamo al resto del mondo. Fantastico. Questo e i telefonini sono praticamente ovunque. Eddie, ma hai fatto anche negli Stati Uniti? Hai fatto il coast to coast? No, Stati Uniti no. C'era a un certo punto, come tante altre idee c'era, ma ho fatto l'America del Sud, da Panama fino a Terra del Fuoco. Ma ti porto io a fare un Los Angeles, New York di corsa. Mi sono appena capottato un attimo fa con il Pacifico, da Lima in Perù a Sydney in Australia. Che ne dite? Non è una figata? Lo abbiamo lasciato là sul Pacifico, l'ha attraversato a Remine 290 e rotti giorni, e lo ritroviamo oggi a Los Angeles ed è lì prontissimo perché domenica inizia la sua prossima avventura. Sto parlando di Alex Bellini ed è qua con noi. Ciao Alex! Pronto Alex? Ciao Federico. Ciao. Non so se dite buongiorno, buonasera. So che già, insomma, cosa abbiamo? 9 ore di differenza di fuso orario, credo, più o meno. Sì, esatto, sono le 9:15 di una giornata molto brutta, insomma sembra che se l'estate è arrivata se n'è già andata, perché qui ci sono 15 gradi, si sta con la felpina, non è proprio quel che si suol dire un'estate americana. No. 70 sarà un po' il numero magico del tuo prossimo futuro, perché questa corsa, perché è una corsa, sono 70 tappe in 70 giorni, 70 tappe da 70 km più o meno l'una, quindi un'impresa folle. Sì, detta così sembra veramente folle. No, lo è. Però sai, lo è, dici. Però sai, la cosa importante, insomma, bisogna vederla come un piccoli passi, no? Mettere un passo davanti all'altro, incuranti dei giorni che ci aspettano, semplicemente concentrati sul presente, perché è nel presente che poi si fa la storia. Noi siamo persone un po' così, no? Che non badiamo a quel che potrà succedere, ci curiamo semplicemente di mettere un passo davanti all'altro. Los Angeles, New York e la Foot Race 2011, siete, mi sembra, 16 concorrenti, se ho letto bene. Esatto, quindi... esatto, siamo in 16, provenienti da sei stati, sei nazioni diverse. Paesi. Con me a Los Angeles ci sarà un altro italiano, un sardo, col quale insomma mi piacerebbe stringere un'alleanza, così almeno nei momenti di difficoltà riusciremo a sopportarlo. C'è da dire una cosa, che i primi 20 giorni, Federico, li faremo praticamente nel deserto, con temperature molto elevate, saranno sicuramente questi giorni che faranno la differenza. Chi sopravvive i primi 20 giorni ha una buona possibilità di raggiungere New York, quindi partiamo di schioppo subito e affrontiamo il mostro. Alex, ma come ci si prepara di testa e di corpo a una corsa, a un'impresa del genere? Allora, per quanto riguarda la preparazione ti posso rispondere in due maniere. La preparazione fisica, anche se meglio di me lo potrebbe dire il mio preparatore atletico Simone Bortolotti, lui ogni tanto ancora ridiamo e pensiamo al fatto che un anno fa io non corressi. Io ho iniziato a correre a novembre del 2010 e in 10 mesi preparare una corsa di 5.000 km ha dell'impossibile. Poi invece è tutto più fattibile, perché comunque bene o male il motore già girava a buoni regimi, sì. Bisognava solamente dargli una ritoccatina qua e là. Per quanto riguarda invece l'aspetto mentale, sai, ti devo confessare che non ho fatto molto, perché io ho la fortuna di essere nato pronto per questo genere di cose, no? È in assoluto la maniera, personalmente ovviamente parlo, la maniera più romantica per passare il mio tempo, cioè proprio affrontando la fatica, i giorni i sacrifici anche che una corsa di questo genere impone, è ciò che mi fa sentire vivo. Certo. È la mia missione sulla terra, non correre, ma essere in un certo senso essere nelle condizioni di dover mettercela tutta. Ma ecco, avrai il tempo di guardarti intorno? Certo, anzi me lo auguro, questo sarà sicuramente un antidoto contro la noia che affronteremo. Io non vedo l'ora di attraversare gli Stati Uniti, perché al di là della corsa c'è un viaggio che mi aspetta e mi piacerebbe, e non vedo l'ora di conoscere il centro degli Stati Uniti, perché bene o male le coste le conosciamo tutti. Ci si dimentica che gli Stati Uniti sono fatti anche di grandissime pianure, immaginatevi la Louisiana, di grandissime salite, il New Mexico, il Texas. Attraverseremo 15 stati americani e tornati a casa sicuramente avremo un'idea più precisa di cosa sono gli Stati Uniti, anche tutto questo mistero, questo fascino che nascondono. Non ho dubbi. Alexbellini.it è il sito ufficiale di Alex, da lì ci sono i vari link per poterti seguire giorno per giorno. Un'ultima cosa, so che insomma ti stai già abituando alle svegliatacce che ti aspettano. Oggi, per esempio, ore italiane, a che ora hai puntato la sveglia? Ma sì, dici bene, un aspetto particolare della corsa è che le tappe, la corsa inizierà tutte le mattine alle 5:30 e per potersi cibare, quindi fare una colazione abbondante, bisogna svegliarsi 2 ore e mezza prima, quindi vuol dire alle 3. Bene. E da subito abbiamo cominciato con questo ritmo e anche stamattina, ora americana, ci siamo svegliati alle 3 nel cuore della notte, domandandoci come far passare il tempo, perché non è che si può andare in giro il 3 di notte, quindi bisogna passarlo un po' in camera, si fanno 4 chiacchiere eccetera, però la giornata te la godi meglio, sì, in maniera migliore, perché parti da subito. Non ho dubbi. Alex, grazie davvero, alexbellini.it, ma ci ritroveremo sicuramente, perché verremo a correre con te, sappilo, nelle prossime settimane. Tanto in bocca al lupo per la partenza, per la preparazione, e goditi tutto, che insomma poi è il messaggio che tu ci lasci ogni volta che parliamo. Grazie mille. Ciao Alex, ciao. Ciao. Ciao Federico, buona giornata a tutti. Ciao. Mine vaganti. Ancora buona domenica da Federico Taddia, questo è sempre Mine Vaganti, 349-238-6666 per i vostri messaggi. Mine Vaganti di Radio 24 invece è il nome della nostra pagina che abbiamo aperto oggi in Facebook, un po' per raccogliere i vostri commenti, ma soprattutto i link e le foto dei vari argomenti che andiamo a toccare. E, saluto l'ospite che ho avuto con me in studio, Eddie Cattaneo, autore del libro Mondo via Terra, edito da Feltrinelli, 467 giorni, 108.000 chilometri senza bucare il cielo, questo giro del mondo a piedi o comunque con mezzi lenti, che è raccontato in questa sorta di diario, molto bello, molto avvincente, come sempre insomma scatta anche l'invidia, no? Perché tutti pensano che la tua sia stata una scelta folle, poi tutti avrebbero voluto avere il coraggio di compierla, perché insomma quello che narri è veramente bello. Poi ti hai ridato delle piccole regole, tipo ogni giorno alle 17 dovevi fare una foto? Beh sì, sempre per quel fatto di riuscire in qualche modo a mettere tutto il mondo dentro in alcune piccole cose, tipo alle 5 del pomeriggio ho cercato sempre di fare una fotografia in modo tale che ovunque fossi ci avessi quello che avevo davanti alle 5 del pomeriggio, rappresentava quel giorno, oppure ho chiesto a varie persone nella loro lingua di dire sempre le stesse tre cose: mi chiamo, vengo da e mi piace, quindi ce l'ho in tagico, in uzbeko, in dialetto inca, piuttosto che in burkinabè, del Burkina. L'unica cosa di quelle che volevo fare, volevo piantare piantine di basilico lungo tutta la strada, ma purtroppo ho perso i semi. Ah, sì? Sulla via della seta. Sulla via del basilico. Eddie, mille aneddoti, so che anche il fatto di essere italiano insomma ti ha aiutato in un certo modo. Comunque il fatto di essere italiano mi ha aiutato, perché vabbè, l'italiano l'ho sempre visto in qualche modo come una persona solare, paese della moda, del canto eccetera, e beh, soprattutto poi anche il mio cognome, in realtà io mi chiamo Eddie Cattaneo, e facendo la via della seta, quindi passando da tutti questi posti che una volta erano sotto l'Unione Sovietica, quindi stiamo parlando di Kazakistan, Uzbekistan, Kirghizistan, avevano un'unica televisione nazionale nella quale passavano pochissimi programmi, passavano la censura. Uno di questi era appunto La Piovra, e il commissar Cattani è uno dei personaggi tuttora più importanti e famosi all'interno della cultura pop di quel posto. Quindi quando io mi presentavo col mio cognome Cattaneo, scattavano subito baci, abbracci, pacche sulla spalla, e mi chiedevano come stava lo zio, come stava lo zio, o se qualcuno aveva visto l'ultima puntata, cioè quasi tutti mi facevano le condoglianze o mi è spiaciuto molto, sai, alcuni vecchi, vederli, alcune persone anziane, o vederli molto virili, ma piangendo, dicendoti che avevano pianto per la morte di questo mio parente Cattani, e faceva scattare una cosa un po' strana. Mille aneddoti, mille storie, mille incontri raccontati in questo libro Mondo via Terra. Grazie davvero Eddie, complimenti. Grazie a voi, grazie mille. E sai, Mine Vaganti anche questo. Noi adesso partiamo dal giro del mondo alla cronaca locale, e lo facciamo con Leonardo Manera. Grazie, ciao a tutti. Grazie, buonasera, saluto il popolo italiano anch'io. Oh, anche tu. Buonasera a tutti. Ciao Peter. Sì, io sono Peter, buonasera, Bisius. Eccolo. E diciamo che in questi anni... Perché mi chiamano Bisius da 3 anni? E in effetti purtroppo... No, purtroppo lo dico io. D'altra parte io sono cresciuto in questi anni, sono diventato padre, mi sono sposato con il Shirley, Ho visto i capelli incanutiti. Sì, mi sono incanutito il fascino di George Clooney. Più o meno. E diciamo che mi sono sposato con Shirley e ho due figli, Michael 12 anni e Sharon 18. Sharon? Sì, Sharon, faccio fatica con l'H. Però... Il livello dove va? A Sharon? Sharon? Non lo capisco, Vigil. No, niente, scusi. Comunque diciamo che mi sono pentito di aver dato quei nomi, oggi li chiamerei diversamente. Tipo? Facebook e Twitter. Sono... avanti. Vabbè, è Leonardo Manera che amiamo e che conosciamo e che è qua in collegamento con noi. Ciao Leonardo. Ciao Federico, buona serata a tutti. Facebook e Twitter, ti sembrano due nomi da... Ma questa era un'idea che in realtà ho fatto per poco tempo, era il vecchio Peter che diventa un padre di oggi e che per esempio dice alla figlia a scuola studia il modo di darla a uno molto ricco, possibilmente imprenditore, calciatore o politico, però se vai a letto con loro prendi sempre delle precauzioni, ricordati sempre di usare la telecamera, altrimenti se non hai le prove non ti invitano in TV. Proprio un genitore. Era un padre moderno, come, molto moderno. Come ce ne sono, credo, in questo periodo molti. Sì. Allora, Leonardo, noi lo sai che io ti amo commentare con te la cronaca locale, che io sfoglio e leggo durante la settimana. Vado alla ricerca delle notizie più belle e curiose, mi piace sottoporle al tuo commento, quindi anche quest'estate la passeremo spesso insieme leggendo le notizie più folli. Sei pronto? Abbiamo un appuntamento fisso estivo noi due, ci sentiamo d'estate come due amanti che si ritrovano sfogliando la cronaca locale. C'è un qualcosa di triste tutto ciò. E partiamo dalla Repubblica di Palermo. E il titolo con foto, il titolo è questo: mucca in fuga sullo stretto, e nuotava veloce verso la Calabria ma le corna l'hanno tradita, e così a un miglio dalle coste siciliane una mucca bianca scappata da qualche giorno da una mandria montana è stata legata e portata a riva dagli uomini della guardia costiera. Sì, io in merito a questo mi sono fatto due idee. La prima è che semplicemente fosse una mucca accaldata, quindi cercava un po' di refrigerio facendosi un bagno nello stretto di Messina. La seconda, che forse è un'ipotesi più difficile, ma forse può essere anche quella, che fosse una mucca comunista che, avendo visto che a Milano ha vinto Pisapia, vuole venire a controllare com'è la situazione qui al nord. Però secondo me più dalle corna è stata tradita in acqua dalla scia di latte bianco che si lasciava, e quindi è stata facilmente individuabile per quello. Può essere, può essere. Mine vaganti. Mine vaganti con la cronaca locale commentata da Leonardo Manera. Allora Leonardo, abbiamo lasciato la mucca che voleva fuggire dalla Sicilia verso il nord e passiamo quindi alla prealpina, siamo a Gallarate. Questo è il Gallarate. Gallarate, conosci, sono un po' anche le tue zone, credo. Zona provincia di Varese, insomma. Ok. Il titolo il profondo nord, quello definito profondo nord, che appunto a cui ambiva la mucca del profondo sud. La prealpina, il titolo è: rubavano Mercedes col consenso del mago. 11 arrestati, insomma, era questa truffa di gruppo. Avevano un'organizzazione di malavitosi che, insomma, avevano questo commercio di Mercedes rubate, però erano guidati da un mago. Quando loro appunto volevano prevedere o c'era qualcosa che non andava, contattavano direttamente in Tunisia il loro mago di riferimento. Non è male, sì, com'è? La prima cosa che mi viene a dire è che se li hanno scoperti non doveva essere un grande mago, diciamo, altrimenti. Ma l'altra cosa è che poi se ne sono probabilmente accorti gli inquirenti, perché ho saputo che come optional sulle automobili rubate potevi scegliere o il navigatore satellitare o la sfera di cristallo per individuare quali erano i percorsi migliori da fare senza code. Quindi probabilmente anche questo ha inciso, diciamo, nello smascheramento dei ladri col mago. Hai ragione, bravo, bravo, bravo. Il Tirreno, siamo invece a Livorno, questo è il titolo: ruba gasolio dal suo camion e lo rivende ai colleghi a metà prezzo. Beh, tu sai come si fa ad aspirare il gasolio, anche la benzina ai serbatoi, tutti l'abbiamo visto molte volte, ci si mette con la canna, con una canna tipo cannuccia grossa, insomma, con una canna di plastica, si aspira all'inizio con la bocca, quando comincia a scendere si mette la canna in un contenitore più basso e poi il gasolio va da sé. Infatti, credo che questo ladro di gasolio sia stato scoperto proprio con gli esami del sangue più che in altro modo, perché i globuli invece di essere bianchi e rossi erano globuli super e senza piombo, perché a forza di aspirare con la canna gasolio si era anche un po' condizionato i globuli del sangue, e quindi questa può essere una, a mio parere, delle cause che lo hanno fatto trovare, insomma, probabilmente dai suoi capi, forse lui una che aveva una carta carburante, immagino, dell'azienda con la quale faceva gasolio e poi ne approfittava per guadagnare insomma qualche cosa. È un modo di arrangiarsi in questi tempi di crisi, peraltro discutibile. Ecco, che hai una mente malavitosa anche tu, cioè hai ragionato proprio, cioè, sono basito da questa cosa. Io così, insomma, ho letto la notizia, mi ha fatto sorridere, tu invece ci hai ragionato, bravo Leonardo. Ma era una cosa che faceva ricordo ogni tanto, soprattutto quando ero adolescente, mi capitava di vedere spesso persone che vedevi, non rubavi dal tuo motorino per poi rivendere. Anch'io. Ma mi sono riempito la bocca di miscela e di gasolio, è veramente una sensazione pessima, quindi non l'ho più rifatto. Mio padre invece era bravissimo a fare queste cose, ecco, per esempio. Bene. La Tribuna, siamo a Senzone, Carbonara, Zero Branca, Sileo, siamo lì insomma nel Trevigiano. Il titolo del trafiletto: rapporti tesi di vicinato, donna fa strage di alberi da frutto, scavalca la recinzione dei vicini e, armata di motosega, fa una strage di alberi da frutto. Ne ha tagliati ben 14. Ecco, qui mi viene solo da dire una cosa. È un melodramma. La chiudiamo qua. Questo. Perfetto. Per amor di patria preferirei non andare oltre, insomma, battutaccio, però. No, però ci sta. E sempre ancora, siamo sempre a Treviso, sempre con la Tribuna, e il titolo è un titolo particolare, perché insomma in questo periodo di crisi, dove anche le industrie cercano nuovi aiuti, dove la creatività anche entra nell'impresa, il titolo è L'OMU guida la haka dei manager, il fuoriclasse degli All Blacks dice i valori del rugby per vincere in azienda. Ha chiamato con sé tutti questi manager e insieme a loro ha ballato la famosa haka maori. E un po' mi spavento io a pensare a questi manager trevigiani che fanno la danza maori, però è il segno, a mio parere, della globalizzazione, nel senso che magari una volta i manager a Treviso avrebbero bevuto un grappino, no? Magari per tirarsi su e per darsi coraggio. Adesso fanno la danza maori, per dire che è una cosa abbastanza inquietante, però ho saputo che in Giappone ballano la tarantella, quindi è proprio la globalizzazione che si va diffondendo e gli usi e i costumi di tutto il mondo che si contaminano, quindi ben venga in qualche modo, no? Sono un po' spaventoso, insomma, però va bene. Devo dire immaginare questi manager che fanno questa danza maori. Sì, io ho anche la foto davanti a me, in effetti non è proprio un bel vedere, però la si vede che il prodotto che devono vendere o promuovere non è di altissimo livello, perché se uno ha un prodotto forte in cui crede, forse non ha bisogno di caricarsi così, ma siccome ormai si butta sul mercato di tutto, bisogna crederci anche alle cose non proprio, insomma, indispensabili, allora c'è bisogno di caricarsi in altro modo. Chiudiamo con l'ultima notizia, che è in prima pagina oggi su Repubblica di Bologna, il titolo: cercasi Orfeo, il nanetto rapito nell'arena di via Brocchi Indosso. Questo nano da giardino, da anni è il simbolo del cinema estivo, è stato rapito. Nell'articolo, anche in prima pagina, viene dato il numero di telefono e anche la descrizione del nanetto. L'altezza, dicono, è facilmente intuibile, i tratti del viso ricordano quelli di Eolo e Mammolo, indossa un cappello rosso come quello dei Capuleti e una scialopette grigia, una camicia azzurra. Abbiamo anche la descrizione del nanetto. Io sono convinto che questa è una cosa organizzata, perché gli ascolti estivi in TV calano e allora c'era bisogno di un caso che tenesse alto gli ascolti, e su questa cosa Vespa e Matrix ci faranno almeno 2 mesi di trasmissione, insomma. Io la penso così, visto che hanno dato ci sono tutti gli elementi per un vero giallo estivo, direi. Quindi adesso si potranno scatenare le trasmissioni estive, la ricerca del nanetto, e poi a settembre ricomincerà la stagione televisiva con la richiesta di riscatto a Biancaneve. Io lo vedo così. Avremo il plastico del nanetto, quindi presto in onda. Capito. Leonardo, grazie davvero. Sei in tour, so, questa sera, e lo spettacolo dove? A Bel Gioioso, vicino a Pavia, e invece domani parto, vado in Abruzzo per fare un comedy horror, un film che appunto si svolge in Abruzzo. Okay. Sarò lì per 40 giorni, quindi se ci sentiamo in futuro vi darò le notizie da quelle zone. Sì, per scoprire se sarà più comico o più horror, perché qua siamo, sì, esatto, abbastanza curiosi. Leonardo Manera, grazie davvero, come sempre, grazie per essere stato qua con noi. Grazie a te, Federico, e agli ascoltatori. Ciao. Buona serata. Ciao. Questo è il modo di Mine Vaganti per entrare nella cronaca locale. Tra l'altro vi ricordo anche il nostro indirizzo email, che è minevaganti@radio24.it. Se volete proporvi, se vi sentite in un qualche modo Mina Vagante, o se anche voi leggete qualche articolo curioso della cronaca locale degno di essere narrato, raccontato, commentato, siamo qua, oppure le nostre pagine in Facebook, perché comunque la cronaca locale ci racconta un'Italia anche curiosa, a volte fatta di strane diatribe, e lo sapete, ci piaceva la scorsa estate, lo vogliamo ripetere anche quest'anno, dar voce ai protagonisti e anche chi la racconta, questa cronaca. E oggi andiamo a Caserta, e andiamo a Caserta con Franco Tontoli, che è un collaboratore del Corriere, giusto Franco? Sì. Sì, ecco, scusami, è Corriere, perché avevo mille articoli sotto di me. Autore di un pezzo che mi è piaciuto molto, intitolato "Per vendicarsi dei vicini di casa, vende l'intero palazzo agli immigrati. L'uomo spiega così le ragioni del singolare annuncio. Troppe amarezze, così qualcuno impara a campare." Franco, questa è la vita quotidiana, eh? E la vita quotidiana questa volta però continua con un minimo di umorismo, e non è stato trattato in cronaca da confinare in pagine di Nila. Noi siamo qui a Grazzanise, entroterra domiziana, 10 chilometri da Castel Volturno, un fabbricato di un piano e tre quarti, diciamo, prossimo alla ultimazione. Sì, ma quindi è nuovo? Sì, nuovissimo. 10 anni però di intoppi. E intoppi, intralci, qualcosa che manca, aggiornamenti, eccetera. Alla fine il proprietario scopre che a tirargli qualche sgambetto, lo ha dichiarato lui, sì, non era che il titolare di un'agenzia tecnica che è confinante muro a muro col suo fabbricato, un po' il doppio gioco. Sì. E allora per vendicarsi lui ha innescato questa sorta di bomba etnica, diciamo, però fatto anche con delicatezza, perché vendo questo fabbricato, ed è uno striscione di quelli di fattura professionale, non una lenzuolata con lo spray. Ha fatto proprio stampare uno striscione, sì, stampare, di quelli pubblicitari. Commissionato, sì. Sarà un 3 metri largo, bello, evidente, insomma un gran pavese. Sì. E dice: vendo questo fabbricato a rumeni, gitani, albanesi e cinesi. Ecco, a me già mi colpì il gitani, non zingari, che magari era dispregiativo, invece gitani, insomma, un termine più elegante, più forte. Sì. E quindi quando ho proposto questo servizio al giornale con cui collabora, il Corriere del Mezzogiorno, il Dorso Campano Pugliese del Corriere della Sera, sì, e insomma ci ho fatto un salto. Nasce la storia dalla, c'è sempre un gancio, dalla soffiata di un amico, Mario Luise, che è stato ex sindaco a Castel Volturno e fa il pendolare Caserta Castel Volturno per motivi suoi. Noto allo striscione, mi telefona e dice: va a dare uno sguardo. E lui ne era anche un po' contento, perché dice: niente, questo è più che un manifesto, è più che uno striscione, sembra un manifesto, finalmente una via alla internazionalizzazione in una zona che per la verità ne ha raccontate altre, certo, di diverso, certo, tipo. Certo. E beh, ci vado, e mille reticenze da parte dei vicini, siamo un po', non omertosi per carità, però diciamo discreti, alla fine riesco a contattare il proprietario. A proposito, stampato di fattura, come dicevo, professionale, vendo questo fabbricato, eccetera. Poi sotto, applicate con lettere adesive grandi, sì, c'era il numero di telefonino cellulare, solo che il sole ne aveva scollato un paio e io sono stato lì a fare varie cose, sembrava di fare lo slot machine, perché un 8 mi sembrava 3, un 6 sembrava, queste sono le fatiche del collaboratore, del giornalista di provincia. Comunque poi fortuna, lì ci si conosce tutti, mi hanno indicato il fratello del proprietario, poi l'ho chiamato e lui con molta spontaneità ha detto, io dicevo: allora questi, ecco, è il caso di dirla, Mini Vaganti, la tua trasmissione, questa è una bomba etnica che lei ha innescato per vendicarsi dei vicini, contrariamente alla signora di prima di Treviso che ha rovinato i frutteti. Certo. E dice: sì, così qualcuno impara a campare, glielo riempio di extracomunitari e poi voglio vedere come se la cavano, sempre puntando. Quali sono state le conseguenze? Le conseguenze è che lo striscione è ancora lì, la casa, l'abitazione è prossima ad essere ultimata perché ci sono stati altri adempimenti che ha dovuto fare proprio per quei rallentamenti riferiti dal proprietario e a proposito di questo professionista che gli curava le pratiche, ma ho idea che resterà solo uno striscione senza altre conseguenze. Insomma, una provocazione, no? Insomma, l'integrazione. È stata una provocazione, esatto, però poi... ripeto, era addirittura poi il mio amico ex sindaco, sì, alla fine quando gli ho spiegato il tutto ci è rimasto un po' deluso, perché diceva mi sarebbe piaciuto veramente credere che in fosse una via. Esatto, detto, una bandiera dell'integrazione, invece comunque un fondo razzista c'era, e come se c'era, è certo. In una zona che, ecco, anche recentissimo di ieri, tristissimo fatto, questa volta avvenuto fra connazionali, assolutamente, a Castelvolturni, a 10 km esatti da Grazianise. Ho capito. Franco, grazie davvero comunque per averci raccontato, insomma ci piace andare a scandagliare la cronaca locale per trovare anche altre storie. Franco Tontoli, collaboratore del Corriere del Mezzogiorno, ciao e buona domenica. A te buona domenica. Ciao, ciao Franco. Mine vaganti. Raccontare un'Italia che c'è ma che spesso non si fa vedere e non si fa sentire, anche questa è una delle missioni, tra virgolette, che ci siamo dati con Mine Vaganti. E mi piaceva in questa prima puntata, che coincide anche con la fine dell'anno scolastico, raccontare una storia di quelle Mine Vaganti che sono gli insegnanti della scuola italiana, no? Di cui tanto si parla, però alla fine sono le persone che fanno la differenza e sono veramente gli insegnanti, i maestri, le maestre, professoresse, professori, che sono le colonne portanti di questa fondamentale istituzione che è la scuola. E proprio ieri Claudia Brunetto, una collega delle pagine di Palermo e di Repubblica, ha pubblicato un articolo molto bello di un suo reportage che ha fatto nelle scuole palermitane. Si intitola La lotta quotidiana per tenere in classe i ragazzi dello Zen, e raccontava la storia di un anno scolastico, di più di un anno scolastico, di un approccio, raccontava la storia di vita di un insegnante, di una professoressa che quotidianamente si trova a lavorare all'interno della scuola, in questo quartiere complicato, quartiere difficile, e dove insomma professionalità e passione si devono fondere ogni minuto anche per sopravvivere in tutti i sensi, e questo è un po' anche il concetto che traspare dall'articolo. E ho invitato quindi la professoressa di cui si parla, Rossana De Simone, la ringrazio per essere qua con noi. Ciao Rossana, buona domenica. Ciao a tutti gli radioascoltatori. Non è facile, vero, mettere insieme passione e professionalità quando si lavora in un contesto così difficile. Non è facile, ma ci proviamo tutti i giorni inventando delle strategie quotidiane che non sono molto ortodosse chi conosce le linee classiche della pedagogia. E la creatività ti viene in aiuto, quindi? Mi sento male. Scusa, no, dico, hai cercato un aiuto nella creatività, nel trovare queste nuove strategie. Ci vuoi contestualizzare un po' la situazione per capire cosa vuol dire lavorare in quella scuola? Intanto raccogliere i ragazzi dalla strada. Al mattino, quando suona la campana, tutti i professori aspettano davanti alla porta, ma molto spesso scendono in strada per riportare i ragazzi in classe, e poi lottare contro quelli che invece vengono a disturbare la lezione. E questi bambini portano in classe la disperazione di un intero quartiere, dove non c'è lavoro, dove non c'è niente, e per qualche ora noi cerchiamo di fargliela dimenticare attraverso i libri, però i libri non soltanto letti, i libri raccontati e anche qualche volta inventati da loro, con un pallone, con le caramelle, con le figurine, con la musica e con il teatro. Infatti nell'articolo si parla proprio delle figurine che tu utilizzi come strategia pedagogica. Le figurine, perché se qualcuno studia per un'intera settimana, allora le figurine, il grande premio, un album delle figurine, e poi il pallone per i maschietti e qualche braccialetto lucida labbra per le bambine. Non è un metodo molto pedagogico, però funziona. E funziona soprattutto, ce ne accorgiamo leggendo i loro temi, perché non è possibile che un bambino o una bambina a 12 anni mi scriva: io non posso avere un futuro come tutti gli altri perché abito qui. E ci sentiamo molto soli, anche se devo dire che quest'anno il comune ha cercato di aiutarci, ma grazie ai tagli di chi non capisce che cosa significa lavorare in una scuola di frontiera, siamo quasi alla disperazione, non abbiamo sorveglianza, due bidelli fanno i miracoli per tenere pulita un'intera scuola, nessuno ha capito che cosa significa, certo, lavorare qui, di chi ha scritto queste vergognose regole per la nostra scuola. Rossana, e cosa ti fa scegliere di non scappare, di non cambiare scuola? Sarebbe molto semplice cambiare scuola, ma basta leggere questi temi per capire che sarebbe una grande sconfitta, non tanto per noi, ma per tutte, per tutta la nostra, la nostra Italia, per questo. Basta leggere i temi. Ecco, adesso... Perché non è possibile che questi ragazzi non sentano di poter avere un futuro. Certo, e alla fine la scuola diventa una delle uniche ancore. Infatti, per esempio, questi tre mesi, due mesi e mezzo di vacanza è un vuoto, poi vuol dire ripartire in tutti i sensi? Sì, si tratta di costruire il loro futuro, contro tutto e contro tutti. Ci aiuta tanto la nuova caserma dei carabinieri che hanno aperto da pochissimo, ed è bellissimo per noi trovare i vigili al mattino, cosa impensabile fino a qualche anno fa. E lottiamo anche contro la disperazione delle famiglie. Abbiamo bambine che non vengono a scuola per badare fratellini più piccoli, roba da terzo mondo, quarto, quinto, quello che volete, ma nessuno ci aiuta, tranne i volontari. E qualche volta noi, più dei ragazzi, ci sentiamo soli. Però insomma si trova a volte una figurina, a volte un tema, a volte un sorriso di questi ragazzi e si riesce per fortuna a vincere anche la rassegnazione, no? che poi alleggia, c'è una tentazione. Qualche volta la stanchezza ha il sopravvento, però li vedi che ti aspettano e soprattutto vedi i ragazzi che marinano la scuola e poi dopo un'ora ti passeggiano nel giardino perché non hanno nessun altro punto di riferimento e allora li riacchiappi. E si riparte. Le regole sono queste. Ce le inventiamo ogni giorno. La lotta quotidiana per tenere in classe i ragazzi dello Zener, il titolo dell'articolo di Claudia Brunetto. Rossana, grazie davvero per la tua testimonianza, un grazie a te, grazie a voi per avermi fatto parlare. A tutti i tuoi colleghi. Non ci lasciate soli. Siamo qua. Ciao e grazie. Grazie davvero. E noi rimaniamo a Palermo e lo facciamo partendo da Ballarò. È strana, no? È strana questa assonanza. Uno dice Ballarò e magari pensa al mercato di Palermo e subito ormai viene in mente questa musichetta, perché l'associazione è fortissima tra la sigla del programma televisivo e il quartiere. Ma sono ben altri i rumori di Palermo, i rumori e suoni di Palermo, rumori e suoni che ha raccolto un artista, si chiama Alessandro Librio, e ha avuto la fortuna, l'opportunità di portare questi rumori palermitani alla Biennale di Venezia. Alessandro è qua con noi. Ciao Alessandro. Buonasera. Niente, questo è il suono di Ballarò ormai, è stato sdoganato. Sì. E tu Alessandro, sei siciliano? Sì, sì, io sono nato a Trapani, 100 km da Palermo. Certo. E ho vissuto a Palermo per 6 anni circa. E quindi ho fatto un bel pieno di traffico, perché vivevo in via Roma, una delle città più trafficate. Certo. Quindi da lì mi è venuta l'idea di trasportare in tempo reale, per 24 ore, i suoni della città di Palermo sul centro storico di Venezia. Che è per 24 ore. Fantastico, no? Là in un centro storico dove il traffico non c'è per definizione, perché a Venezia, infatti, non ci sono le automobili, tu mi hai portato il traffico, solo il traffico, ovvero non lo smog, spero. No, infatti, okay. Sì. Sì. Ho deciso di spostare in tempo reale per 24 ore, quindi anche la notte, il paesaggio sonoro palermitano sul centro storico veneziano, mm-hmm, in occasione dell'apertura della Biennale di Venezia. Ok, e questi suoni che tu hai raccolto come? Attraverso una serie di microfoni e un sistema di registrazione binaurale, semplicemente detto, vabbè, 3D. Sì. E il suono viaggiava via internet dall'alba all'alba, quindi dall'alba del giorno 4 giugno all'alba del 5 giugno. Ok, quindi ha inaugurato con scene di traffico a Venezia la Biennale, e abbiamo credo alcuni di questi suoni, abbiamo proprio un estratto di un po' di traffico palermitano, ve lo facciamo ascoltare, ve lo offriamo anche a voi, non solo a Venezia ma in tutta Italia. E in effetti, no, se uno lo contestualizza in piazza San Marco... Sì, no? Infatti, devo dire che i momenti più belli sono stati proprio l'alba, dalle 5 alle 7, in cui si sentivano passare di tanto in tanto dei motorini. Era abbastanza strano, sì, sì. E poi ho voluto creare questo ponte virtuale, diciamo, in occasione dei 150 anni dell'Unione d'Italia, una sorta di ponte virtuale almeno sonoro, no? Fra queste due città così tanto lontane e così tanto diverse, ma entrambi di porto. Certo. Le reazioni delle persone? Allora devo dire che fino alle 11 del mattino sono venute un bel po' di persone a lamentarsi fra i gondolieri, non tanto per i volumi, non tanto per i volumi, ma per la stranezza del suono. Certo. Mi immagino il gondoliere che certo è abituato a una remata, al passaggio di un motoscafo, te lo posso concedere. Esatto. Sì. E quindi invece successivamente c'è stata un'inversione di situazione, sì, nel senso che i veneziani si sono divertiti, è venuta la polizia, l'esercito, però solamente a chiedere, a cercare di capire che cosa stesse succedendo, divertiti. Da questo strano avvenimento sonoro. Insomma, questa è arte, questa è contaminazione, ce l'hai fatta. Tu vivi a Londra, sì. Alessandro, fai sculture sonore, insomma, è un po' la tua caratteristica. Sì. Prossimo obiettivo, prossimo lavoro? Sai già? Allora, adesso sarà l'installazione Palermo a Venezia, che è sponsorizzata da BioFox. Sì. E, sarà a Salemi, al Museo del Passaggio, per la Fondazione Sgarbi, dal 1 luglio. Ok. Sarà la stessa installazione in versione video sonora. Ci sarà anche qualche passaggio di Sgarbi che sbraita? Sicuramente sì, lui farà l'inaugurazione, non so bene che giorno, ma ci sarà anche lui. Ok, insomma, quindi ci aspettiamo altre novità. Diamo il sito che è www.alessandreolibrio.com, quindi l'installazione adesso quindi a Venezia non c'è più, hai fatto questa 24 ore ed è stato poi tolto tutto, vero? Perfetto. Sì, 24 ore perché per 3 mesi sarebbe stato impossibile. Sì, penso anche i gondolieri ringrazio in questo momento per la tua scelta. Alessandro, complimenti però perché insomma, esperimento riuscito e hai unito l'Italia usando il traffico, che non è il massimo, però portare il traffico là dove non c'è, insomma, sono quelle idee che fanno di voi delle mine vaganti. Ciao Alessandro, grazie. Buona domenica. Mine vaganti. Ultima parte di Mine Vaganti in quest'estate che insomma staremo insieme ogni domenica dalle 17 alle 19. Mi piacerebbe anche raccontare in diretta alcuni degli eventi su Facebook più curiosi ai quali vengo invitato, quindi voi me li potete segnalare, potete usare le nostre pagine Mine Vaganti di Radio 24 su Facebook, oppure minevaganti@radio24.it per farlo via email, insomma in rete ci trovate in tutti i modi, invitateci agli eventi che create in Facebook e noi andremo così a centellinare quelli più curiosi e daremo voce ai protagonisti. Oggi per esempio diamo voce a questo evento che poi linkeremo anche sulle nostre pagine, che è workshop di autocostruzione di case di paglia. È un evento, è stato creato, ci si può iscrivere, si può partecipare a questo laboratorio e quindi abbiamo invitato il coordinatore e l'ideatore del tutto, si chiama Walter Expedito Trento, è anche lui un artista pluriforme perché lavora in vari campi e c'ha questo pallino della casa di paglia. Ciao Walter! Ciao, grazie, buonasera. Allora, sì, un pallino che mi è stato trasmesso in realtà come tante altre cose. Sì, beh, insomma, tu sei una spugna, quindi fai tu le cose, le rielabori e le porti lì in terra pugliese. Diamo subito una connotazione a questa casa di paglia, cioè proprio è una casa in cui ci si può vivere? È una, sì, è una casa vera e propria, con tutti i servizi, gli accessori. La differenza è che anziché avere i muri in cemento, in blocchetti o in altri materiali che si deve magari si devono recuperare attraverso lo sfruttamento del suolo, invece si utilizza il materiale recuperando appunto la paglia, le canne comuni che si trovano solitamente anche sui bordi delle strade. Certo, allora io vivo in una casa di legno, questa insomma, sì, è una casa prefabbricata di legno, e tutti i miei amici sempre solitamente quando io passo fischiettano la canzone dei Tre Porcellini per ricordarmi che rispetto a quella di pietra, la casa di legno, ecco, quella di paglia mi è messa peggio anche, cioè, invece sono, cioè, resistono, stanno in piedi. Sono resistentissime quanto le case in muratura, anche perché finora non abbiamo capito quanto esattamente possano durare, perché le prime costruite negli Stati Uniti dai pionieri ancora nel tardo 800 ancora resistono, quindi insomma ci sono case in cemento dove dopo 100 anni magari sono già a pezzi. E tra l'altro insomma questo contrasto tra cemento che va a pezzi e la paglia, che poi anche dove tu hai imparato a costruire, dove hai incontrato le case di paglia, è stato proprio in Abruzzo dopo il terremoto, perché lì è stato costruito un intero villaggio adesso di case di paglia. Sì, giusto? È stato costruito e va a concludere un unico villaggio, dove mi ha portato proprio Caleb Boldò, questo maestro arrivato dal New Mexico in Puglia, con questo suo bagaglio di esperienze intorno alle case di paglia, dopo che si era costruito anche lui la sua lì in New Mexico. Quindi è arrivato lì e ci ha invitato a fare i volontari, a me, alla mia compagna, lì a Pesco Maggiore nel dopo terremoto. Del 6 aprile qualche anno fa, certo, in questo ecovillaggio, e lì hai acquisito le competenze e adesso hai organizzato questo workshop lì in Puglia. Sì, io in realtà sto cercando di mettere insieme diverse esperienze, quindi con i ragazzi che hanno portato avanti l'ecovillaggio di Pesco Maggiore, che sono i ragazzi del BAG dell'Officina Mobile, sì. Siamo impegnati nei workshop, nei laboratori, nelle scuole cantiere delle case di paglia qui a Tracisternino, Locorotondo e Ceglie Messapica. Invece con un altro ragazzo che arriva, un altro architetto che arriva da esperienze fatte in Spagna e in Portogallo, invece ci divertiremo con le canne, con queste strutture per ripararsi all'aperto, con le canne comuni, appunto di quelle a rundo Donax, si chiamano scientificamente. Fantastico. Tutte le informazioni per i laboratori e i workshop dove si possono trovare? Sì, si possono trovare su microhabitat.it. Perfetto. Sono tutti i workshop, tutte le date, tutte le informazioni necessarie. Ok, metteremo il link nelle nostre pagine in Facebook, insomma, e questo ci piace, aver dato voce a questo evento. E tu ci hai dormito in una casa di paglia? Sì, io ci ho dormito e si sta benissimo, non c'è problema, sono insonorizzate, non si teme il caldo, il freddo. Io poi vengo dall'esperienza anche dell'autocostruzione o del recupero delle case di pietra, quindi vi posso assicurare che è molto meno faticoso e molto, ma molto più divertente delle case di pietra costruirsi una casa di paglia. Perfetto, Walter, ci hai quasi convinto, quindi potrei rinunciare alla mia casa di legno per avvicinarmi alla casa di paglia. Ciao Walter, buon lavoro a te e a tutto il gruppo di volontari. Sfatiamo il falso storico dei Tre Porcellini, della casa di paglia e del lupo arrabbiato. Sfatato tutto. In questo modo. Ciao Walter, grazie. Ciao, ciao, ciao. Grazie a voi, grazie a te, ciao, a presto. E come Vaganti ci spostiamo direttamente in Moldavia. Astăzi seama a moldovenilor la concursul Italia are talente 2. Tinerii din trupa Angels Fruit au declarat în fața juriului că sunt din Moldova. Din Soroca, nu așa? Quello che state ascoltando è un vero TG Moldavo. Pretindi ei că ar fi fost scris în limba română. Asta e chiar stanno parlando di un gruppo musicale moldavo ma italiano. Nu au de limba noastră. Da. C'è quattro membri ai formati. Sono quattro emiliani. Hanno partecipato a Italia Ghost Talent, che è finito ieri sera. Speravano anche di vincere, ma non ce l'hanno fatta. Però sono diventati un piccolo fenomeno. E appunto hanno messo su questo gruppo musicale, fingono di essere moldavi. E là in Moldavia ci sono cascati. E con noi c'è uno dei quattro, Gino Andreoli. Ciao Gino. Ciao Federico. Ma ci sono cascati, no? Stanno al gioco, no, anche loro? No, okay. No, stanno al gioco, insomma. Ci sono cascati, qualche italiano c'è cascato, che ci ha chiesto la traduzione dei testi, ma per fortuna poi dopo hanno capito molto velocemente che invece era tutta una farsa, un linguaggio totalmente inventato, non esistono parole in moldavo in nessuna delle nostre canzoni. Ok, siete quattro amici, insomma, sì. Attori non ancora professionisti, avete avuto questa intuizione? Sì, ci siamo conosciuti tramite i match di improvvisazione teatrale, perché è una decina d'anni che tutti facciamo teatro su testo e improvvisazione. Ed è venuta questa idea guardando, come capita di solito, guardare su YouTube le cose più strane. Ci siamo trovati davanti a questa boy band dell'est e ci è venuta voglia di ripetere, diciamo, questo video. Abbiamo ingaggiato un nostro amico che ci creasse una musica, che poi è stata quella che ha dato il là a tutto, che è Sprazne. Sì, che forse abbiamo anche, aspetta, intanto così la mettiamo sotto per capire anche la qualità, Canora, sì, sì, esatto, gruppo. La qualità, ecco, sottolineerei questa la parola qualità. Ok, quindi la musica giusta, il video giusto, diamo giusto un assaggio di queste sonorità. Quindi la giusta sonorità, il giusto look, i giusti atteggiamenti, e avete sfondato in rete di fatto. Sì, la cosa è partita per far ridere gli amici, ma questa è una cosa che solitamente si dice sempre, e nel nostro caso è vera, nel senso che l'abbiamo cominciata a far girare solo agli amici più cari, per cercare di capire se erano veramente amici. Se erano veramente amici, no. Scusami. E solo che questi amici sono talmente divertiti che hanno cominciato a spammare in giro ad ulteriori amici, quindi la cosa si è sparsa a macchia d'olio, finché non è arrivata la cosa al trio Medusa. Mm-hmm. Che ci hanno praticamente voluto come apripista, sia in radio che in televisione, della loro trasmissione televisiva, e da lì l'idea di partecipare a questo talent show italiano, dove anche loro, quando abbiamo mandato la lettera di iscrizione, hanno pensato seriamente se eravamo italiani o moldavi. Capito che eravamo italiani, ci hanno chiamato a Bologna a fare i provini, siamo piaciuti, si sono divertiti, hanno detto potreste venire a far parte del nostro programma. Avete fatto la vostra gara, ma la cosa bella è appunto che c'è stata questa ripercussione moldava, là si sono accorti di voi e hanno parlato di voi. E, Gino, diamo il sito internet per vedere i vostri video e anche i vari link ai telegiornali. Molto molto semplice, www.angelsprut.com. Perfetto. Angels, angeli in inglese, Prut è l'unica parola moldava che noi abbiamo tenuto, perché Prut è il più grosso fiume della Moldavia. Ottimo, e noi l'abbiamo già linkato nelle nostre pagine. Ciao Gino, grazie a te e a tutto il tuo gruppo. Grazie Federico. Simil Moldavo, ciao ciao. Ciao, grazie, buon lavoro, ciao ciao. E con questa ultima surreale e anche demenziale Mina Vagante chiudiamo la puntata di oggi. Un grazie a Giorgio De Luca, che con me ha scritto la puntata, Laura Vanossi in assistenza, Valeria Bernardi in regia. Adesso c'è il GR. Noi ci ritroviamo con Mine Vaganti domenica prossima alle 17. Ci troviamo in rete per tutta la settimana. Ancora ciao da Federico Taddia.